Una notte degli Oscar raggelata, quella appena passata a Los Angeles dal Dolby Theater, che ha fatto un po' il punto sulla stagione, una stagione ovviamente segnata dalle tragedie, dalla guerra. Se l'anno scorso il premio al documentario israelo-palestinese No Other Land aveva aperto una finestra sulla questione di palestinesi di Gaza, quest'anno invece agli Oscar ha parlato soprattutto il cinema. Le proteste sono state piuttosto limitate in quel mondo del cinema americano, che ovviamente non è molto sintonizzato sulle politiche di Trump. Molte spillette con le scritte contro l'ICE indossate da moltissimi di quelli che hanno sfilato, e poi Javier Bardem, che ha consegnato il premio come miglior attore non protagonista, che ha chiesto Palestina libera, ha indossato un messaggio sulla giacca, portava un messaggio contro la guerra, quello che aveva indossato anni fa per la guerra in Iraq, purtroppo corsi e ricorsi. Ma invece, dicevo, il cinema ha fatto parlare soprattutto i film, perché il film premiato, quello che insomma è un po' stato il mattatore di quest'anno, una battaglia dopo l'altra, 6 Oscar contro i 4 di Sinners, il film di Paul Thomas Anderson è una farsa sul tono grottesco, decisamente anti-trumpiana, un film che riporta allo spirito incendiario in qualche modo degli anni 70, con dei ribelli, che alcuni dei quali poi, come il protagonista, il personaggio interpretato da Leonardo DiCaprio, trova una sorta di ricomposizione, una sorta di adagiamento, ma poi in qualche modo si riaccenderà attraverso, in qualche modo, e grazie anche alla figlia ormai diventata grande, un passaggio, come dire, generazionale, che Paul Thomas Anderson, finalmente ricordato dagli Oscar, finora sempre trascurato, ha raccontato a modo suo, con uno stile che lo rende uno dei più grandi registi contemporanei, ed era inevitabile in qualche modo che gli Oscar se ne ricordassero. Per il resto, profilo, ripeto, un po' raggiolato, spettacolo anche molto in sordina. Miglior attrice Jessie Buckley per Hamnet, nel film dove Shakespeare è un fantasma evanescente e lontano, mentre il grande sconfitto è sicuramente Marty Supreme, che aveva molte candidature, e Timothée Chalamet, con le sue improvvide dichiarazioni di un mesetto fa sul giovaniliste, anche se ha già 30 anni, insomma, sul balletto e sulla danza e sulla lirica come linguaggi ormai passati e che parlano a pochi, sicuramente ha un po' rotto, insomma, la sua candidatura, che appariva blindata. E quindi Michael B. Jordan, che interpreta due gemelli in Sinner, attore appunto del mondo black hollywoodiano, si è preso l'Oscar come miglior attore protagonista. Per il resto, premi insomma che vanno a Frankenstein di Guillermo del Toro, soprattutto per quanto riguarda alcuni premi tecnici, e poi miglior cortometraggio, un ex aequo, l'Oscar sia a The Singer che a The Two People Exchanging Saliva, il film con lo scambio di saliva, con 6 produttori, fra cui una bolognese, Valentina Merli, un film coprodotto un po' in tutto il mondo. Una curiosità, una statuetta anche per Avatar 3, che si porta a casa l'Oscar per gli effetti visivi, a dimostrazione insomma anche di una certa distanza, di una certa frattura, di una faglia che si sta consumando insomma tra il mondo dell'Academy Award e la grande produzione di blockbuster. Ricordiamo che l'anno scorso aveva vinto Anora di Sean Becker, altro outsider. Anderson non è sicuramente un outsider, ma il suo film è decisamente, come dire, un film che appare molto lontano insomma da Avatar e dintorni. Miglior film internazionale, il norvegese Joachim Trier con Sentimental Value.